c'è fammi nelle quemo a quemo nelle quemo a blobolo tu c'ho ma famle non cacca ni va sole non ho hamile c'è non mi tawo mi tawo nanyo mi tawo sola che mi attasci vuoi mi sane le tue mi tawo c'è somo. Sure, talk, honey, hallole. Make a content by a far. If I would don't catch your chest, I know. Make a beco bacho, it's a masse. No, no, hamile. Geno, minta war. Minta nanyo. Minta sola. Kemiatashi. Bomisanele tue. Bole wonga. Bole wonga. Bola wonga atajojo ee atajojo ee bola wonga wonga jojo wominga bola wominga jojo wonga jojo wonga ye wole tu Salem la jayo kokka kangla lebe akadole ni ya goya jin chale bi adole shi dole ni ne chale bi omo no no hamile cheno mitawo mitao nanyo mitao sonlo kemi atashi bo mi sanele tue bole wo mi na bole wo ma bola wonga atajojo ee atajojo bola wonga wonga jojo jojo jojo wonga jojo wonga jojo jojo kajimbango somono kokla atajojo bola wonga atajojo kajimbango sumo chwe teko kla jojo jojo bola wominga jojo wonga amale ni wonga jojo.